Convocati di Giovanni Capuano. Siamo della stessa pasta, bionda non la bevo, sai. Ce l'hai scritto che la vita non ti viene come vuoi, ma è la tua, per me è speciale. Se ti può bastare, sai che se hai voglia di ballare, uno pronto qui ce l'hai. Balliamo sul mondo, va bene qualsiasi musica. Carremo ballando, sul mondo lo sai, si scivola, facciamo un fandango. Oh, eccoci qui carissimo Federico Casotti, ciao. Ciao, un saluto a tutti, buon 2017 a tutti. Ci siamo, finalmente, ancora qualche giorno e si ricomincia a giocare, ancora qualche giorno e abbiamo qualcosa di concreto su cui parlare. Poi questo è l'anno dispari, quindi diciamo meno, un'estate un po' più libera, però comunque non è che manchi la qualità. No, ecco, cioè questo è un anno dispari, che è un anno un po' sfigato per gli amanti del calcio. Cosa si fa durante l'estate di un anno dispari che non ci sono gli europei, non ci sono i mondiali? Non ci sono le Olimpiadi. C'è la Confederation Cup, la tratteremo come un mondiale. Sì, ancora per anche un anno, se, forse. Poi ne anche parliamo. Se Portogallo e Russia, insomma. Quindi che si fa? Si va in vacanza? Quindi si va in vacanza e si pensa al mercato. Sì, no, detto che abbiamo alle spalle un 2016 che è stata un'autentica indigestione di calcio, una vera e propria buffata, qualche piatto è rimasto qui. Ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi. Io ad esempio continuo ad avere sullo stomaco il rigore di Zaza, ad esempio, che ci ha mandato storto tutto il 2016. C'è qualcosa che ti ha sorpreso di questo 2016? Cioè ad esempio il pallone d'oro di Ronaldo ti ha sorpreso? No, non mi è stufato magari, ma non, nel senso che non perché non lo meritasse, anche se io personalmente penso che io l'avrei dato a Bale, ad esempio, perché trovo che il Bale, per il peso specifico che ha avuto nella Champions League del Real Madrid, per come ha giocato la finale, per come ha trascinato di peso il Galles a una semifinale, perché poi all'Europeo tutti, io per primo, eravamo tutti presi bene dall'Islanda, dal Portogallo stesso, però la semifinale del Galles secondo me è stata davvero una grande impresa e secondo me sta diventando un po' ingiusto per una generazione di grandissimi calciatori che da 9 anni a questa parte Ronaldo, vince Messi. Però non c'è più neanche quel premio che ti consegna in qualche modo all'immortalità, per cui magari noi ci ricordiamo di Belanov e di Simonsen, però magari Robben, Bale e compagnia, magari ce ne ricorderemo un po' di meno, magari ce ne ricorderemo perché di immagini fortunatamente ne abbiamo molte più rispetto a 30 anni fa, però il premio che ti consegna davvero all'immortalità, magari, insomma. Anche se fra mille scandali del pallone d'oro, mille polemiche, cioè io credo che mai come quest'anno sia andato alla persona giusta. Se tu non lo dai a Cristiano Ronaldo nell'anno che vince l'Europeo col Portogallo, che vince la milionesima Champions con il Real Madrid, quando lo vuoi dare? Diciamo che le strutture sono state nel passato, una tra tutte il 2010. Nel 2017 chi lo vince il pallone d'oro? Nel 2017, no, così ci portiamo avanti con calma. Gli amici segnano, registrano e poi ce lo restituiscono. Anzi, oggi vi diamo i pronostici. Allora, chi vince il pallone d'oro 2017? Chi vince? Beh, dipende chi vince la Champions League. Però magari. Io penso, ad esempio, io mi aspetterei, ad esempio, se la Champions League dovesse andare in un certo modo per la Juventus, mi aspetto una considerazione per Dybala a livello internazionale che finora non c'è stata. Certo, in quale secolo un italiano tornerà a vincere la Champions League? Un italiano tornerà il pallone d'oro. Penso nel 22esimo. No, visto che abbiamo celebrato il decimo compleanno del pallone d'oro vinto da Fabio Cannavaro. Tanto il 2016 ci ha regalato anche una marea di record particolari. I 105 milioni pagati per Pogba, che forse ne vale più o meno la metà. Il nostro oracolo, Federico Casotti. quanto verrà pagato un calciatore? Il calciatore più pagato del mercato del 2017, dai, sbilanciamoci. Secondo me bisogna capire anche quali saranno i giocatori, essendo un anno dispari, è anche un anno dove le quotazioni non sono drogate dalle grandi competizioni, no? Quindi dipende anche alcuni grandissimi giocatori se entrano nel mercato, penso a Neymar, penso allo stesso Messi, ci sono giocatori che hanno delle situazioni contrattuali o magari la sensazione di un fine ciclo anche magari insospettabili, no? E lì quando questi giocatori finiscono sul mercato, come si suol dire, devi trovare l'amatore, devi trovare il compratore, e lì si può arrivare, hai voglia, anche diciamo che se entrano in gioco quei grossi calibri, i 105 di Pogba possono essere polverizzati. Sì, anche se la sensazione è che ci sia una generazione di fenomeni che sta arrivando a fine corsa, cioè sta diventando qualcosa per amatori e non più magari per chi vuole investire davvero su un progetto anche vincente in poco tempo, anche che sia subito redditizio. Ma sì, ma pensiamo che il 2017 sarà l'anno in cui Messi compirà 30 anni, che comunque è una soglia psicologica non da poco per un calciatore. Cristiano Ronaldo la trentina, ridendo e scherzando, l'ha già passata, quindi c'è tutta una generazione di giocatori che effettivamente stanno entrando. Poi è anche vero che un giocatore di 30 anni di adesso è diverso da un giocatore di 30 anni anche solo fino agli anni 90. Vediamo ad esempio uno come Zlatan Ibrahimovic, 35 anni, e la competitività di Ibrahimovic è comunque una competitività superiore a quella di un 35enne anche di altissimo livello fino agli anni 90. Quindi penso che i giocatori sui 30, penso anche a Gonzalo Higuain è stato pagato 90 milioni a 29 anni, no? Quindi a 28 ne ha fatti 29 e mezzo, da poco. Sì, perché ne ha fatti 29 da però no, nel suo, gli amici nel suo, juventini si arrabbiano, nel suo 29esimo anno, e quindi questo significa che per il metodo di allenamento, per il metodo proprio di conservazione del fisico dei calciatori, anche in un calcio più usurante, ma i calciatori hanno il modo per essere competitivi e avere di conseguenza un valore di mercato significativo anche ben oltre i 30 e anche magari 32-33 anni. Anche se un po' la sensazione è che li tiriamo noi, alle volte, abbondantemente oltre i 30, e poi giustifichiamo anche questi grandi affari, questi grandi giri di soldi. Oh, 2017 sarà l'anno delle ultime volte per tante cose, ne parliamo oggi, perché facciamo un po' questo viaggio intorno al calcio che sarà nel 2017 da subito, quindi da settimana prossima, fra 10 giorni, insomma, quando inizia la Coppa d'Africa, e poi provando a buttare gli occhi un po' in là, perché il 2017 sarà l'ultimo anno della Champions così come l'abbiamo conosciuta, per fortuna di noi italiani, sarà l'ultimo anno con le amichevoli per le nazionali europee, perché poi dal 2018 cambia tutto. Insomma, sarà 2017 un anno particolare, anche se, lo abbiamo detto, è un po' un anno sfigato perché non ci sono le grandissime manifestazioni. C'è qualcosa da scoprire di nuovo su cui non abbiano già messo gli occhi le grandi squadre, le grandi multinazionali? Qualcosa per cui ci innamoreremo in questo 2017? Ma no, calcisticamente parlando. Ma no, io penso che semplicemente. Io penso che la magia del calcio è anche quella di comunque di rigenerarsi in continuazione. Io penso che il modo principale per il calcio non deve mai perdere di vista, anche nella sua accezione più ormai più moderna, che è quella che è più vicina al concetto di entertainment che di sport, non deve mai perdere di vista il concetto del sogno. E io penso che l'anno che si è appena concluso, che è stato l'anno dell'Leicester per tutti, e se vogliamo anche del Portogallo, quindi l'anno delle favole, l'anno di quelle imprese che sembravano impossibili e che invece si sono verificate, ecco, io penso che anche nel 2017 non è tanto un discorso di cosa c'è di nuovo da scoprire, ma di cosa c'è di imprevedibile che chiaramente può tenere incatenato lo spettatore, il tifoso, perché comunque la speranza è davvero sempre l'ultima a morire. Rassegnare a fare il tifo per il Nizza di Balotelli. Chi a proposito delle grandi favole, c'è il traffico, quando torniamo atterriamo direttamente in Africa. Tutti convocati. Convocati. Atterriamo direttamente in Africa, dove tra poco più di una settimana comincia la Coppa d'Africa. Evento che interessa mediamente Federico Casotti, direttore di Gol.com Italia, che è qui con me. E Filippo Maria Ricci, l'uomo che nella sua carriera giornalistica ne ha seguite quante, Filippo? 6 o 7, dipende, sei dal 7. Vivo più un'altra, diciamo, in differita. Ah, in differita in che senso? Ah, da lontano, diciamo, sì. Però dal vivo, sì. Lontano 94, insomma. Sì, io continuo a considerarla una sorta di buco nero nelle stagioni dispari del calcio mondiale, cioè qualcosa di assolutamente antistorico. Adesso io so che voi la pensate diversamente, però continuo a far fatica a capire l'utilità di un calendario dove in mezzo alla stagione vadano via decine e decine di giocatori dei club europei, no, Federico? Sì, beh, rappresenta comunque un'anomalia, ma credo che adesso poi Filippo può anche darci una conferma. Credo sia anche dovuto al fatto che comunque l'Africa è anche uno dei bacini di voti più importanti della FIFA, di conseguenza è comunque un continente da tenersi buono anche dal punto di vista politico, e quindi cercando di non disturbare più di tanto una programmazione che per ragioni climatiche anche penso che abbia più senso fare a gennaio, no? Sì, come faremo i mondiali in Qatar tra novembre e dicembre, no, Filippo? Sì, ogni due allora, anni possiamo prenderci la Coppa d'Africa. Ha ragione assolutamente Federico, l'ascesa al trono, no, di Blatter ha le sue basi in Africa. Io sono stato presente quando nel 99 lui addirittura diede un mondiale under 20 alla Nigeria, che non era assolutamente preparata a organizzarlo, era un posto pericoloso e via dicendo, però il prezzo da pagare, oltre a svariate altre cosette, è anche questo, per cui tanti voti. Blatter diciamo, è nato lì come presidente della FIFA e ha lasciato questa anomalia, perché poi l'anomalia anche nel biennio, perché in tutto il resto del mondo non si gioca ogni 4 anni. Esatto, questa si gioca ogni 2. E poi anzi che hanno migliorato le cose unendo ogni 2 anni le qualificazioni mondiali a quelle per la Coppa d'Africa, perché sennò prima c'erano anche le qualificazioni alla Coppa d'Africa, per cui erano una marea di partite, e andare in Africa non è esattamente, no, come andarsene in giro per l'Europa, è lontano, i trasporti su quelli che sono. Comunque, questo sì, loro si sono sempre nascosti dietro il dito del clima, che è vero, ma è vero solo in parte. Sì, è chiaro che alcune nazioni non potrebbero organizzare la Coppa d'Africa d'estate per la stagione delle piogge, no? O per il caldo eccessivo, però molte altre sì, lo potrebbero fare. Per cui è così, è una vera anomalia. In Sudafrica si è fatto un mondiale regolarmente tra giugno e luglio. Insomma, il problema meteorologico fosse l'ultimo. Però chiaro, non è che si può fare la Coppa d'Africa solo in Sudafrica, uno ti potrebbe rispondere, no? E quindi è chiaro che magari farla in nazioni desertiche o comunque con un clima peggiore non si potrebbe fare. Detto questo, no, però io ho l'impressione anche, Filippo, insomma, che sia benzina nei ragionamenti di chi vuole stravolgere i calendari, togliere spazi e poteri alle nazionali, restituirli ai club, che in fondo sono quelli che pagano, perché sì, rimane anche incomprensibile come un giocatore se ne vada via 2 mesi e sia comunque regolarmente stipendiato nel mezzo della stagione. No, perché poi devi considerare, no, qua si parte il 14 gennaio, questi no sono via più o meno da Natale, la competizione è lunga, finisce in febbraio, e poi attenzione, la squadra che vince va a festeggiare, perché certe cose non ci sono deroghe, per cui si bisogna andare a festeggiare. E va a festeggiare bene, no? Cioè, esatto, non come noi. Si festeggia così, esatto, si festeggia sul serio, giustamente. E quindi magari rischi di avere il giocatore via veramente per un mese e mezzo, in mezzo alla stagione ci sono fior di campioni ormai che hanno anche stipendi adeguati, e questo è chiaramente un problema. Mi aiutate a capire perché i giocatori che vanno in Coppa d'Africa quando tornano non stanno in piedi? Ce n'è una lunga galleria. Penso che sia anche innanzitutto perché credo ti scombussoli adesso, Filippo. Penso che parlate del fuso orario. Penso ci sia anche un discorso anche, ad esempio, di vaccinazioni. Credo che alla base c'è un discorso di preparazione che comunque ti scombussola, perché giocare in determinati climi, a determinati ritmi, con anche determinate pressioni, perché comunque le pressioni sono sicuramente diverse anche da quelle di un qualsiasi campionato europeo, sono tutte cose che ti scombussolano nel mezzo della stagione, E quindi penso che poi, al di là di tutto, un rigetto poi ce l'hai, che vada bene o che vada male, perché poi mi sembra che sia una cosa abbastanza uniforme, sia che giochi tre partite, sia che ne giochi cinque. Filippo? Sì, guarda, il clima è la prima cosa, soprattutto per chi gioca, diciamo, nell'Europa, a Nord Europa, no? Prendiamo, non so, un giocatore qualsiasi che viene dalla Germania e si catapulta per un mese e mezzo in Gabon, magari facendo prima dei viaggi, andando prima da un'altra parte nel suo paese, e torna, che è chiaro, è tutto diverso. E i preparatori sono diversi. Adesso le nazionali si sono, diciamo, sono migliorate da questo punto di vista, però il preparatore è sicuramente diverso. La dieta è diversa, ma è anche molto diversa. Per cui è chiaro che Federico parlava di pressione, è chiaro, si giocano tante partite, c'è un'attenzione enorme, ci sono appunto l'intero paese alle spalle, e è chiaro che poi si rilassa anche. Io, per quello, a me piace tanto, perché io vedo i giocatori, anche quelli che sono qui in Europa più affermati, quando tornano poi a casa vivono il tutto in maniera diversa, sono molto più rilassati, che è il bello della, no, della Coppa, di questo torneo. Però è chiaro che poi tornare alla disciplina, tanto atletica quanto dietistica, che fisica, che climatica dell'Europa, sì, è un bello shock. È quasi una mezza vacanza. Sì, poi guardando anche la lista dei partecipanti, qui volevo coinvolgere anche Filippo in un'analisi un po' più generale, insomma, anche proprio della geografia e della gerarchia del calcio africano, con la scomparsa quasi dell'Africa meridionale, perché c'è lo Zimbabwe e basta. Quindi che succede al Sudafrica innanzitutto, e poi anche l'Africa equatoriale, che in questo momento mi sembra la regione insieme al Maghreb un po' più dominante, anche con squadre nuove come la Guinea-Bissau o come l'Uganda, che credo mancasse da 40 anni. Il 1978. Che dove arrivò in Filippo, finale. Filippo Maria Ricci non c'era ancora. no, lì ancora no, arrivò in finale e hanno un allenatore interessante questi ugandesi, un serbo, che ha fatto un mezzo miracolo. Sì, cambia. Insomma, intanto potremmo cominciare dall'assenza della Nigeria, che loro si sentono i campioni non dell'Africa, del mondo, però poi sono, no, quanti sono? Tre volte che non vanno, no? E per cui, insomma, comunque l'assenza della Nigeria chiama sicuramente l'attenzione. Questi paesi nuovi, come può anche la Guinea-Bissau, che ha la prima partecipazione, giocano proprio sul fatto che con un minimo di organizzazione e un allenatore un minimo preparato puoi ancora fare la differenza. Il Sudafrica è un paradosso, perché ha sicuramente il campionato migliore diciamo del continente, ci sono soldi discreti, c'è l'organizzazione, la televisione, no, buone squadre. Adesso sono arrivate anche in finale di Coppa dei Campioni, no? Però hanno gli stranieri, però alla fine la nazionale continua a faticare. Sono un po' come in Inghilterra, Filippo. Sì, guarda, domina a livello di campionato la Premier League, non tanto nelle coppe, ma come organizzazione, esatto, ma poi fatica con la nazionale. Sì, sì, io volevo allargare alla crisi anche del rugby, no? In Sudafrica, sì. No? Che chissà, forse non ci avevo pensato, dico, magari può esserci, è l'intero sport che è in difficoltà, magari non sono così addentro. Però sì, il paragone ci sta con l'Inghilterra, con la Premier League, perché la Liga Sudafricana è assolutamente potentissima. Il resto, sì, insomma... Se vogliamo, è un'anomalia, perché solitamente le nazioni che ospitano delle grandi manifestazioni, in questo caso il Mondiale 2010 in Sudafrica, nell'arco dei 5-10 anni successivi hanno dei benefici notevolissimi. L'abbiamo visto in Europa con il Portogallo, l'abbiamo visto Corea in Europa con la Germania, Corea e Giappone. Gli Stati Uniti, che sono partiti da zero in Sudafrica, 94. Questo treno evidentemente non è stato preso, non è stato colto, o ci sono ragioni, insomma, superiori. Sì, assolutamente, a me sorprende, perché dico, il campionato è buono, ma ecco, gli hanno dato il mondiale, anche lì, voglio dire, se torniamo al discorso di prima, da cui era partito Federico, sulla politica, no? Il mondiale tante volte promesso, alla fine, no? Dato all'Africa, sì, è un po' strano, sinceramente, però dico, a livello di singoli, l'assenza più clamorosa è quella della Nigeria, ovviamente. No? Chi sono le favorite? Mi aiutate a fare un po' l'elenco? Vediamo, tu cosa dici? Io, sempre la Costa d'Avorio, ovviamente, no? Che ha vinto 2 anni fa. Il Gabon, padrone di casa, mi sembra una squadra ben attrezzata. Algeria. E poi, poi stiamo. Poi una considerazione interessante, secondo me, è che comunque stiamo parlando appunto il Gabon, la stessa Algeria, se vogliamo anche la Guinea-Bissau, che ha tanti giocatori formati in Portogallo. Comunque stiamo parlando di nazionali che devono tantissimo al calcio europeo e soprattutto a livello di formazione dei giocatori nel calcio europeo. In qualche caso anche, insomma, molti giocatori hanno scelto il passaporto della loro nazionale di origine, mentre magari sono cresciuti essenzialmente in Francia, ecco. Quindi c'è anche questo aspetto che favorisce alcune nazionali più di altre. L'Algeria è andata all'ultimo mondiale con 16, mi sembra, su 23 nati in Francia. Secondo me questo numero è destinato ad aumentare. Ormai, diciamo, i ragazzi nati in Algeria sono pochissimi. Lo stesso vale per il Marocco. Ormai, beh, è un po' il discorso che hanno fatto anche alcune nazionali, no, della ex Jugoslavia, o no, l'Albania, per esempio, che si è andata a riprendere, no, una serie di ragazzi che sono nati altrove. Questo ormai è discretamente popolare in anche tutte le nazionali, soprattutto sotto l'egida francofona, cioè il Mali, il Camerun, il Senegal, ormai trovano tantissimi giocatori che, diciamo, di seconda generazione, che sono nati in Francia, no? Sì, di seconda generazione, di ritorno. E altri no. Sì. Per esempio, il Camerun ha inseguito tantissimo Umtiti, no? Il difensore del Barcellona, e questo gli ha sempre detto di no. Altri invece dicono di sì, insomma, ecco, no? Altri non sanno resistere al richiamo della vecchia Africa. Detto che diventa sempre più difficile anche immaginare la Coppa d'Africa come un serbatoio di potenziali talenti, in cui magari ogni due anni scoprire qualcosa, perché è oramai un mercato assolutamente battuto. A proposito dei mercati, c'è la borsa. Grazie Filippo. Grazie a voi. Buona ciao, Coppa ciao. d'Africa. Ciao Filippo Maria Ricci. La borsa, torniamo subito. Tutti convocati. Usain Bolt si mette in scia. Attenzione che spinge fino in fondo. Ha il record del mondo. Garozzo è c'è. Stoccata, la conferma la stoccata. Daniele Garozzo è campione olimpico. Certe imprese sono possibili solo a Olimpia, la città dello sport. Qui ad Olimpia sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. I miti, le verità, le leggende e i segreti dello sport. Sono Dario Ricci e vi aspetta Olimpia ogni domenica alle 20:30, naturalmente qui su Radio 24. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta Tutti convocati. Ecco proprio il Porto, che non può trovare il Leicester City, che lo ha superato nel girone 1-0 in Inghilterra, poi 5-0 finale del Porto è servito per guadagnare il secondo posto, e trova la Juventus come in finale di Coppa delle Coppe a Basilea nei primi anni 80. Viene assegnata la prima delle grandi coppe europee per squadre di club, la Coppa delle Coppe. Juventus e Porto hanno cambiato questa sera la loro maglia tradizionale. I portoghesi giocano in un completo azzurro, gli italiani in maglia gialla con pantaloncini blu. Real Madrid. Ora il Real Madrid. Ulix et Barcelona, Atletico de Madrid and Borussia Dortmund. Napoli che questa sera gioca in casa alla presenza di un pubblico impressionante, incasso superiore ai 4 miliardi, è un ambiente davvero straordinario quello che c'è qui al San Paolo, un'intera città accompagna con la sua speranza e con il suo tifo la difficilissima impresa del Napoli che tenta di ribaltare il risultato di 0-2 partito nella gara d'andata due settimane fa al Santiago Bernabéu. Quindi già negli anni 80 si facevano 4 miliardi di lire di incassi con una partita di Coppa dei Campioni. Tra l'altro la gara d'andata tantissimo, invece venne giocata a porte chiuse a Madrid, con il Bernabeu vuoto, che secondo le cronache di allora, insomma, il miedo escenico di cui parlava Valdano del Bernabeu fu amplificato dal fatto che fosse vuoto, che è abbastanza un paradosso. Però stiamo parlando della fine degli anni 80. Io rifletto, 4 miliardi di lire sono 2 milioni oggi, che è più o meno quello che incassa la Juve quando fa un discreto incasso allo Juventus Stadium. Marco Belinazzo, ciao. Ciao, buon pomeriggio. Perché noi ci inventiamo che oggi la Champions è una macchina da soldi e la Coppa dei Campioni no. Cioè, era già così negli anni 70 e 80. Lo era soprattutto per gli incassi, di TV ce n'erano di meno, ma ce n'erano, e soprattutto però le partite della Coppa dei Campioni permettevano di fare questi grandi incassi. Peraltro in quel San Paolo in cui si giocò Napoli-Real Madrid non c'erano ancora le sovrastrutture create poi per Italia 90, che hanno ridotto la capienza, e credo ci stavano quasi 100.000 persone, sì. Stai dicendo che appunto oltre agli spettatori ufficiali ce ne fosse almeno un terzo, un quarto in sì, più, però non pagavano quelli, quindi non stanno nel conto, certo. Beh, va detto che comunque già in quegli anni, proprio in quel periodo, è l'87, proprio in quegli anni Berlusconi già inizia a ipotizzare un campionato europeo per club, evidentemente intuendo lui, ma non solo, le potenzialità della Coppa dei Campioni, che poi sono state sviluppate effettivamente in questi anni fino all'inverosimile. E vedremo proprio dal 2017, l'abbiamo detto, è un anno particolare, è l'anno delle ultime volte per tante cose, è l'anno dell'ultima volta della Champions League, così come ci siamo abituati a conoscerlo in questi anni. Adesso insomma cerchiamo anche di fare il punto, però io mi chiedo quante volte il Napoli fa 2 milioni e passa di euro di incasso a San Paolo. Beh, oggi direi che sono passati 30 anni, ragazzi, 30 anni che non accade spessissimo. Accade molto spesso. Il problema di quella manifestazione, di com'era appunto congegnata, visto che di questo stiamo parlando, no? Anche di modelli organizzativi, di grandi manifestazioni, è che Napoli toccò in sorte Real Madrid al primo turno e l'incasso fu di 4 miliardi di lire, ma dopo non ce ne furono altri. No, quindi, certo. Ecco perché poi si dopo fermò nasce tutto lì. L'idea di gironi, no? Che permettessero più partite tra le squadre principali, insomma, dei campionati dei europei. La prossima Champions, che cosa? Quella dal 2018, quindi quella che ci si qualificherà dall'anno prossimo, questa è in un certo senso l'ultima stagione che finisce, ragionando sulla Champions con il vecchio format. Dal prossimo campionato, ad esempio in Italia, si lotterà per arrivare quarti, si potrà arrivare quarti ed essere sicuri di entrare dentro il girone. Che cosa rappresenta, Marco? Rappresenta un compromesso o un punto d'arrivo? Ma per l'Italia è un successo quasi immeritato, nel senso che ci dà la possibilità di schierare 4 squadre direttamente ai gironi, essendo al quarto posto nel ranking UEFA per nazioni, e non a caso tutte le altre leghe, comprese quelle che ci sono sopra, si sono schierate contro questa riforma. Ce la siamo scritta noi. Beh, per fortuna, come dire, l'alleanza preventiva, oserei dire, di Tavecchio con Čeferin, qualche frutto insomma lo ha portato, insieme agli europei, la situazione degli europei under 21. Credo che questo sia fondamentale proprio per dare ossigeno al movimento calcistico italiano. Cioè, avere 4 squadre significa aumentare gli introiti del movimento, perché soprattutto poi ci dovrà essere in ambito UEFA la capacità di moltiplicare gli attuali introiti, e lo si sta pensando di fare per esempio spalmando le partite su due fasce orarie, un po' come accade con l'Europa League. Esattamente. Il punto però è che dovremo sicuramente, l'Italia adesso è quarta nel ranking, o comunque ha questa possibilità di avere dal 2018 le 4 squadre, dovrà sapersela mantenere nel tempo, che è la cosa che a me personalmente preoccupa di più. Abbiamo un vantaggio abissale sulla Francia, perché siamo intorno ai 17 punti. Teniamo conto che è poi un sistema che dobbiamo non iscriverci per perderlo. Teniamo conto che dalla quinta in poi diventa diventerebbe una, veramente una tragedia, nel senso che diventano tre, ma due vanno ai preliminari, quindi sì, c'è il rischio di star fuori. Il rischio è di creare anche un solco notevole tra la quarta e la quinta, quindi è bene essere nelle prime quattro, dobbiamo sapercelo meritare. Poi penso anche che sia parallelamente però importante ridare un senso all'Europa League, concepirla in una maniera forse diversa rispetto al formato anche di adesso. Anche se sarà difficile pensare a un'Europa League più importante dopo questa riforma, probabilmente potrà cambiare veste, potrà diventare il terreno dove andare a scoprire nuove realtà, provare a farle misurare prima di portarle dentro la Champions. La verità è che non ce lo meritiamo. Cioè, noi i quattro posti nella Champions League fissi non ce li meritiamo. Basta pensare che ad oggi di club italiani dentro la top 16 ce ne sono due. Una è la Juventus, che è quinta o sesta a seconda, insomma, delle settimane come girano, e l'altra è il Napoli, che però si trova al quindicesimo posto. Quindi questo è un risultato tutto politico. Beh, Marco, no? Cioè, sì, di sportivo non c'è nulla. Risultato che no, assolutamente premia, se vuoi, il passato, il blasone, che qualche modo. E poi premia che ce lo siamo comprati. Cioè, se le TV italiane sono quelle che spendono di più in Europa per comprarsi i diritti TV della Champions League, è forse anche giusto che abbiano un prodotto su misura. Indubbiamente. L'idea comunque è quella di riportare i grandi club italiani, in particolare i club di Milano, in Europa, perché è funzionale al concetto di business e di entertainment di cui il calcio si sta in un modo o nell'altro piegando in questi anni. E ripeto, è un tipo di riforma che nasce da una motivazione politica che premia il passato e ci permette però di investire sul futuro, perché diciamo che poi avendo quattro squadre in Champions e tre in Europa League si potrà abbastanza tranquillamente, credo, poi mantenere il quarto posto nel ranking, e quello che si dovrà fare però è provare a utilizzare le risorse che arriveranno alla Champions sia per portare in squadra giocatori di maggiore qualità, sia però di fare investimenti tipo infrastrutturale, penso in particolare al Napoli in quest'ottica. Insomma, una specie di piano Marshall per il calcio italiano, mi verrebbe da sì, dire. Siamo all'ultima chiamata. Esatto. Siamo all'ultima, vi diamo i soldi, ve li facciamo arrivare, ve li lasciamo, perché poi in gran parte li paghiamo noi, insomma, attraverso Sky, Mediaset, chi di triennio in triennio ha i diritti televisivi. E però cercate di tornare quelli che eravate. Sì, e sarà importante spenderli bene, non come è stato fatto dagli anni 90 in poi, dove si è pensato all'uovo tutti i giorni e non alla gallina. Sì, anche domani. Se non siamo gli unici che non spendono benissimo i soldi. Sì, anche se in Inghilterra, penso tu ti riferisca all'Inghilterra, ad esempio al Manchester United. Sì, anche se comunque di come diciamo si possono buttare via centinaia di milioni di euro. Partono comunque da una base, diciamo che ad esempio le infrastrutture, sulle infrastrutture loro hanno comunque lavorato in maniera diversa da noi. Poi una volta fatto lo stadio, una volta reso il loro stadio un gioiello dal Manchester United alle squadre magari di Championship, poi possono permettersi magari di spendere e espandere. Noi siamo forse uno step indietro. Abbiamo ancora un paio di minuti, ne volevo approfittare con Marco Belinazzo, visto che prima abbiamo parlato di Coppa d'Africa, per capire invece quale sarà il punto di caduta prima o poi dell'eterna guerra tra la FIFA, le nazionali e i club. Guerra che personalmente mi trova schieratissimo con i club, perché è una follia che anche in un anno ad esempio come questo debbano concedere i giocatori per 60-90 giorni in date FIFA alle nazionali, continuando a stipendiarli magari pure nel mezzo della stagione, come capita proprio con la Coppa d'Africa. Marco, le nazionali sono state fondamentali nella fase, diciamo, del calcio romantico per creare passione e identificazione tipo appunto patriottico. Il problema è che quella grande contraddizione che sta esplodendo per l'evoluzione economica e finanziaria che ha assunto il calcio rende di fatto anacronistico quasi, insomma, la disputa di certi tornei o di certi tornei di qualificazione con incontri voglio dire, hanno poco a che fare magari con il calcio agonistico, non per tornare sulla polemica di qualche tempo fa di San Marino e Mulder. Detto questo, io credo che sicuramente si sta andando verso una riforma anche dei calendari dei nazionali, e per esempio l'idea di poter avere in tutti gli anni pari tutte le competizioni delle nazionali, magari raggruppandole in un periodo omogeneo, sia una delle soluzioni da adottare, soprattutto perché poi questa riforma andrà ad intrecciarsi anche con quella del campionato del mondo per club, che è una delle priorità di Infantino, che vuole ridare appunto lustro anche a questo torneo, magari disputandolo negli anni dispari e facendo sì che si scontrino appunto ogni due anni i migliori club a livello mondiale. Per cui forse ecco, il problema, l'insidio nazionale che potrebbe essere forse risolto. Il paradosso è che tutti parlano di alleggerire i calendari, tutti, a partire da FIFA e UEFA, poi tutti cercano di metterci dentro la manifestazione organizzata da se stessi. Cioè, sì, devono essere gli altri a fare la dieta. Campionati no, più piccoli, Champions League più piccola. Il punto è che serve mondiale a 48 squadre. Una razionalizzazione dei calendari. In questo senso penso che il basket possa essere un buon esempio, no? È vero che nel basket si gioca di più, però si gioca anche meglio. Sì, però nel senso che l'estate i giocatori non si fermano mai. Se li chiamano la nazionale, stanno via due mesi, tre mesi. Però la concentrazione dell'attività delle nazionali in un unico periodo durante l'anno è, secondo me, il modo migliore anche per allenarli meglio, per prevenire infortuni che abbiamo visto, insomma, tra ottobre e novembre è stata un'ecatombe nel calcio mondiale. Quindi penso che questo sia un aspetto importante e penso che ci sia anche un aspetto magari slegato dal discorso appunto, diciamo, finanziario o comunque politico, ma di rinsaldare il legame tra il pubblico, i tifosi e le nazionali da parte della FIFA, con delle regole, ad esempio anche sull'eleggibilità dei giocatori, delle regole serie, univoche, che creino attaccamento, che creino affezione e che non rendano le nazionali dei club, perché sì, ci manca il calciomercato delle nazionali. Il calciomercato delle nazionali, secondo me, rischia di togliere parecchio. Sì, gli unici non ce l'hanno fatta siamo noi, che volevamo prendere Dybala e giustamente hanno scelto tutti e due l'Argentina. Grazie Marco. Grazie a voi, a presto. Grazie Marco Belinazzo. Il traffico, poi raccontiamo due potenziali favole di questo 2017, se riusciamo. Tutti convocati. Verona-Torino, trasferta d'affari. Io, un collega e il sistema Digital Radio. Ti va di ascoltare la radio? Certo, ma te la faccio provare in digital. Ne ho sentito parlare. Il suono perfetto che non ti lascia mai nemmeno in autostrada. E in più hai tanti contenuti speciali. Basta un autoradio digitale. DAB Plus. Chiedila al tuo concessionario. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Tutti convocati. Cos'è, un canto di montagna? Questa è Nissa la Bella, è l'inno della città di Nizza. Della città di Nizza, è in lingua nizzarda, sì. Che insomma, visto che la patria a Nizza era nato Garibaldi, insomma, fa capire che Nizza fino alla metà del 1800 era italiana. Aspetta, e non francese. Fammelo sentire. Ma secondo te Balotelli l'ha imparato? No, allora raccontiamo un po' insomma, il 2016 lo abbiamo detto, è stato l'anno delle due grandi favole. Una, quella del Leicester di Ranieri, campione d'Inghilterra, evento probabilmente irripetibile, ma non per il Leicester che è in zona retrocessione, ma in assoluto per una squadra come il Leicester in un campionato come quello della Premier League, che pure è uno diciamo, dei più equilibrati. L'altra grande favola è quella del Portogallo, che è riuscito finalmente a coronare il sogno di conquistare un grande trofeo con una generazione di fenomeni che però rischiava di chiudere come quelle che l'hanno preceduto, e cioè senza riuscire ad arrivare a prenderlo, il premio più ambito, e lo ha fatto tra l'altro fuori casa in una finale contro una nazionale che secondo me aveva già in testa di averlo vinto, quell'europeo, ed era la Francia. Il 2017 noi tutti ci auguriamo che qualche altra favola la regali, magari proprio partendo dal Nizza. Sì, e anche se la favola del Nizza, o comunque la storia del Nizza, perché non, ormai la favola è strabusato, insomma, come concetto, sarebbe molto molto diversa da quello dell'Eister, perché l'Eister è un evento irripetibile, cioè è la quota 1 a 5.000, quindi per definizione è l'impossibile che diventa possibile. E la storia del Nizza sarebbe in realtà semplicemente la Ligue 1 che torna a essere la Ligue 1, il campionato francese che torna a essere un campionato folle, imprevedibile, come lo era stato prima dell'avvento del Paris Saint-Germain. Storicamente il campionato francese alterna periodi. C'era stato il periodo del Lione. Esatto. Che aveva vinto una gran serie di titoli. Sette. Storicamente il campionato francese alterna periodi con domini granitici. Sette titoli di fila del Lione, cinque del Marsiglia, il ciclo del Paris Saint-Germain, in passato il ciclo del Saint-Étienne, ad esempio, e in mezzo anni in cui può vincerlo chiunque, può vincerlo una neopromossa, magari chi vince l'anno dopo retrocede in Ligue 2. È un campionato realmente folle, e questo Nizza, devo dire, che mi ricorda molto, e non solo perché ha Belandà in squadra, il Montpellier, che si ricorda bene Carlo Ancelotti, perché Carlo Ancelotti arrivò a gennaio, il primo anno al Paris Saint-Germain, nel 2012. Era a mani basse, anche se la situazione era difficile. Era abbastanza, e come benvenuto si trovò un Montpellier che valeva l'Udinese, diciamo, come gerarchie, che era, poi in realtà era il Montpellier di Olivier Giroud, ma questo l'abbiamo scoperto dopo, che Olivier Giroud era un ottimo centravanti, di Belandà e di Yang Ambiwa, c'era anche l'ex difensore della Roma, che andò a vincere il campionato con pieno merito. Ecco, mi sembra che questo Nizza, il Nizza che poi è un gigante dormiente del calcio francese, perché innanzitutto è la quinta città di Francia, e quindi diciamo che come bacino d'utenza ci siamo assolutamente. È una società che ha vinto tantissimo negli anni 50, c'era il dualismo Stade Reims-Nizza, e poi per tanti anni si è eclissata, è stata anche dei Sensi, di Franco Sensi per un certo periodo, e da qualche anno con una nuova proprietà, con un progetto anche a livello giovanile, perché ci sono tanti ragazzi che sono cresciuti e che sono venuti fuori dal vivaio del Nizza, magari non giocano più nel Nizza, penso a Hugo Lloris ad esempio, che arriva dal Nizza. È una società che gradualmente, piano piano, si trova a raccogliere i frutti di un lavoro che non è un lavoro né casuale né pienamente fortunato. Diciamo che il Leicester si è trovato in una situazione quasi più grande di lui, tra capo e collo. Si è trovato nella tempesta perfetta. Esatto, nella tempesta perfetta. Il Nizza, diciamo che c'è anche un po' di programmazione con un pizzico di fortuna che non guasta mai. Sì, io non so quanta programmazione invece ci sia in una squadra che ha fatto metà stagione straordinaria in un campionato in cui c'è una squadra che vince sempre, che è il Bayern Monaco, che all'inizio dell'anno era dato 500-1 vincitore della Bundesliga, e invece insomma è lì che se la sta giocando come Lipsia. Saluto Pietro Nicolodi, che il campionato tedesco lo conosce come le sue tasche. Ciao Pietro. Ciao. Ciao Pietro, buongiorno. Allora, a tutti. Che percentuale c'è di fortuna e che percentuale c'è invece di programmazione nella storia dei bibitari? C'è tantissima programmazione, c'è un lavoro molto molto ben effettuato dal direttore sportivo attuale, che è Ralf Rangnick. Gli hanno dato i pieni poteri, è uno che conosce il calcio tedesco molto molto bene, è riuscito a fare una squadra molto competitiva già in partenza. Ecco Pietro, io ho una domanda che insomma è una cosa che non riesco a togliermi dalla testa da quando loro erano in Zweite Bundesliga. Nella Bundesliga attuale c'è il Wolfsburg, che è emanazione di una nota casa automobilistica. Non è povero. L'Ingolstadt uguale. Il Bayer Leverkusen, che ha uno sponsor già nel nome. Ma tutto sommato il Lipsia ha riportato la Germania dell'Est a livello competitivo. Tutte? Perché tutti odiano l'RB Lipsia? È la squadra più odiata della Germania. Perché sono strani anche i tedeschi. No, questo non si può dire. Sono avanti di questa tradizione, vogliono un club che abbia basi solide da tanti anni, e prima odiavano Leverkusen, poi hanno odiato l'Hoffenheim, e adesso è il turno del Lipsia, ma sono cose che lasciano il tempo che trovano, secondo me. Sì, beh, anche se insomma è poi di fatto la notizia che gira, anche tutte queste manifestazioni negli stadi contro il Lipsia quando va a giocare. Siamo credo oltre il folklore, non so se ci sia anche un po' di, fra virgolette, ma molte virgolette, di razzismo verso l'idea di una squadra dell'Est che sia altamente competitiva. No, beh, non penso che sia per questioni di posizionamento geografico di Lipsia, è proprio una questione anche di un po' di aggiramento delle regole, se vogliamo, perché al Bayer Leverkusen tutto è concesso, al Wolfsburg anche, però la Red Bull è austriaca e questa cosa ai tedeschi non piace tantissimo, evidentemente hanno fatto finta di creare una Red Bull germanica, però insomma il manico del tutto è ancora austriaco. Ma avendo dietro la Red Bull può diventare, come teme Beckenbauer, una davvero una reale competitrice per la Bundesliga, qualcuno in grado di dar fastidio ad esempio al Bayern? Ma secondo me sì, anche perché preso esempio di quello che hanno fatto in Formula 1, dove hanno fatto delle cose veramente impressionanti, possono provarci anche nel calcio, anche perché i soldi effettivamente sono tantissimi a disposizione. Poi non li spendono tutti, non è che in realtà fino adesso sono stati abbastanza parchi, hanno speso il giusto. Però hanno disponibilità mostruose. Hanno anche la fortuna di avere un approccio di Carletto Ancelotti al Bayern un po' difficile. Non si è ancora visto il miglior Bayern. Non si è ancora visto il miglior Bayern, ed era abbastanza normale tutto sommato, perché i 3 anni di Guardiola, per quanto uno dica non hanno vinto la Champions, sono stati mostruosi dal punto di vista della continuità. Hanno vinto una quantità di partite che non si era mai vista nella storia del calcio, ne hanno perse pochissime, soprattutto in casa hanno stradominato, ogni partita sembrava la festa del gol, e un minimo di calo c'è all'interno di un gruppo che ha speso tantissimo settimana dopo settimana. E adesso bisogna ricostruirlo e forse ha anche cambiato un po' il tipo di preparazione. Ancelotti ha detto inutile vincere i campionati in novembre, quando poi ad aprile, quando comincia la stagione che conta veramente per tutti, cioè la Champions League vera, siamo cotti. Il problema è che adesso a febbraio ci sarà da affrontare l'Arsenal e non sarà una cosa così semplice. Ecco, quando la stagione inizierà a contare per davvero, in primavera, il Borussia Dortmund secondo te che ruolo potrà giocare? Che è la squadra che ha giocato meglio in Europa quest'inverno, autunno-inverno. Il Borussia Dortmund è una squadra interessantissima, solo che è una specie di under 21 viaggiante che ogni tanto ha dei cali inspiegabili, ha tantissimi giocatori giovani che non hanno ancora la continuità necessaria a passare ad altissimi livelli il martedì o il mercoledì e il sabato o il venerdì o la domenica in Bundesliga. Questo è un problema per Tuchel, però se lo lasciano lavorare in pace, come è probabile che succeda, questi sono destinati nei prossimi anni a fare delle grandissime cose. E sarebbe l'ennesima ripartenza di un club che è già ripartito più volte con diversi progetti quasi sempre vincenti. Sì, è ripartito dal fallimento quasi, insomma salvato in extremis prima dell'avvento di Klopp. Da lì in avanti insomma hanno fatto passi da gigante, sono un'organizzazione modello, un pubblico che è qualcosa di fantascientifico. È un piacere andare a vedere una partita a Dortmund. Certo che io se dovessi fare tipo un corso di sopravvivenza, anche magari quelli che si fanno nelle aziende, io chiamerei i giocatori dell'Amburgo, perché tutti gli anni sembrano spacciati, tutti gli anni riescono a fare delle salvezze veramente miracolose, ma secondo te ce la faranno anche quest'anno? E qual è il problema dell'Amburgo di questi anni? Il problema è una società ondivaga come poche, hanno cambiato più direttori sportivi e presidenti loro che tutte le squadre della Bundesliga messe insieme. Negli ultimi 10 anni in realtà la squadra è piuttosto forte, nel senso non è da prime 5 posizioni, ma nelle 10 ci sta senza grandi problemi, quindi c'è qualcosa che non funziona nell'ambiente ed è abbastanza particolare, tra l'altro con un pubblico anche lì incredibile, sono 50.000 tutte le volte che giocano. Io dico, se avessero anche una squadra di calcio chissà quanti andrebbero, più di 50.000 in realtà non ci entrano, ma avrebbero un pubblico fantastico. Avrebbero la fila fuori per poter entrare. Si scannerebbero per entrare. Sono ammirevoli per come continuano ad appoggiare la squadra, nonostante giochino veramente male a dispetto delle potenzialità, però io penso che possono farcela abbastanza tranquillamente. Però capita quando hai una società che non ha idee chiare, potremmo fare l'elenco anche guardando in Italia, insomma, di qualche altro precedente. Grazie Pietro. Grazie a voi. Ciao Pietro. Grazie a Pietro Niccolodi, grazie anche a Federico Casotti. Grazie a voi, è sempre un piacere e ancora buon anno. Grazie, buon 2017. Io mi fermo qui, ringrazio Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Gianmarco Ferronato in regia. Torniamo domani col solito orario.